scelto me o no? Quando capita, ho scelto te. Non lo so. Quando capita, so che mi sento diversa. Quasi dispersa. Hai scelto me. E adesso che ho scelto te, amore mio, se ti capita, fa che sia tutto diverso. Fa che sia tutto diverso. Se ti capita,